Gli scherzi dei compagni. Al calar della sera i lavoratori del medesimo rione si riunivano talvolta in gruppi loquaci per ritornare alla borgata insieme, fra chiacchiere e canti non di rado mescolati a qualche trivialità. Ma tutto ciò non entrava nei gusti di Giovanni Maria, che a quest'ora, quando anche la natura si raccoglie, provava un immenso bisogno di solitudine e di silenzio. Lasciava allora che tutti avanzassero e, quando si trovava solo, estraeva la corona del rosario e pregava a suo agio. Le sue labbra erano sempre in movimento. Alcuni dei suoi compagni si voltavano qualche volta a mirare lo spettacolo di questo giovane così buono e così pio, ma altri, corrotti dalle idee volgari dell'epoca, prendevano in giro il suo fervore. «Francesco», dicevano, «non vuoi unirti a Giovanni Maria a biascicare il Pater Noster?» Il rossore che si dipingeva allora sul volto di Francesco diceva abbastanza, senza che ci fosse bisogno di parole, quale fosse il suo dispiacere per gli scherzi indirizzati al suo giovane fratello. Del resto, Giovanni Maria avrebbe potuto farli tacere senza fatica, perché riflessivo per indole, ben conosceva le mancanze altrui ed aveva parola pronta e precisa. Ma preferiva tacere e con il suo rosario continuava la preghiera. Gli altri, mortificati, cambiavano discorso. Erano ancora senza dubbio i medesimi compagni che si divertivano a nascondergli gli attrezzi del suo mestiere. Questo scherzo sciocco, ripetuto pare abbastanza spesso, avrebbe fatto perdere la presenza anche ai più miti. Ma Giovanni Maria non se ne turbava e, senza perdere il suo amabile sorriso, cercava nella siepe la pala o la zappa e si rimetteva tosto tranquillamente al lavoro. Un giorno il fratello maggiore, per un futile pretesto, lo sgridò fortemente. Giovanni Maria, che avrebbe potuto discolparsi con tutta facilità, preferì ancora tacere. Simili esempi di virtù presto o tardi dovevano portare i loro frutti. Quelli che lo avevano criticato sulle strade di Dardigli senza dubbio finirono per pensare come quel buon vecchio che diceva a Monsignor Richard, vescovo di Belley: Giovanni Maria era un modello. Alcuni lo disapprovavano, ma egli aveva ragione. Il concordato del 1802. Frattanto, sul cielo della Chiesa di Francia spuntava un'alba nuova. Il primo console, preoccupato di stabilire l'ordine nel paese, dandogli la pace interna, aveva compreso che senza la religione non sarebbe riuscito a fare nulla di serio e di stabile, ed iniziò col pontefice quelle trattative dalle quali nacque il concordato che fu firmato a Parigi il 16 luglio 1801, ratificato a Roma il 15 agosto e dichiarato legge di Stato il 5 aprile 1802. Quale emozione a Parigi quando, all'alba primaverile del 18 aprile, la campana maggiore di Notre Dame, muta da 10 anni, gettò nell'azzurro i suoi trionfali ritocchi per annunciare con le feste di Pasqua la risurrezione della Chiesa Cattolica nella Francia. La famiglia Vianney e Giovanni Maria soprattutto accolse la notizia con gioia e commozione. Il ristabilimento del culto a Dardigli. Già da alcuni mesi il reverendo Don Giacomo Rey, al quale l'esilio non aveva tolto né il titolo di parroco né l'affetto dei suoi parrocchiani, era ritornata a Dardigli, e così dalla primavera del 1802 le solennità liturgiche, delle quali Giovanni Maria non serbava che un vago ricordo, si poterono celebrare come prima della rivoluzione. Il giorno del Corpus Domini colse le rose del giardino per spargerle sulla strada e aiutò i fratelli e le sorelle ad intrecciare ghirlandi di agrifoglio e bosso. Che brivido di gioia quando si spalancò il portale della chiesa e al canto del Pangelingua l'ostensorio brillò sulla piazza al di sopra della folla orante. Da allora, ogni volta che gli sarà possibile, prima di andare al lavoro, farà una visita alla chiesa per domandare il coraggio di cui ha bisogno per la lunga giornata. Nella stagione in cui il sole spunta prima del suono dell'Angelus e bisogna approfittare delle prime ore per la raccolta del fieno o del grano, Giovanni Maria è già nei campi quando la campana dà il segnale della messa. Il pio lavoratore seguita a compiere il dovere presente, la sua devozione infatti è fatta di obbedienza ed è esente da scrupoli, ma da lontano si unisce al sacerdote che celebra, recitando cinque Pater e cinque Ave. Poi rinnova il desiderio di ricevere il corpo di Cristo ed il suo cuore si risente ripieno di soprannaturale soavità. Ma non sempre poteva resistere. Qualche pomeriggio, quando sentiva la campana che annunziava la benedizione, si rivolgeva implorante a suo padre che soffriva di dolori reumatici. «Padre, lasciami andare alla chiesa per una mezz'ora. Pregherò per la tua guarigione». La famiglia Vianney, anche negli anni di persecuzione, in cui era stabilito per il riposo l'ultimo giorno della decade, non aveva mai trascurato di santificare il giorno del Signore. La notte tra il sabato e la domenica si assisteva alla messa del sacerdote proscritto e durante la giornata si pregava in famiglia, si leggevano buoni libri, si visitavano i parenti e gli amici. Ridonata la pace alla Chiesa, poche delle loro abitudini furono cambiate, ma la loro fede ne avvantaggiò, sull'esempio di Giovanni Maria, che li portò verso una vita cristiana più perfetta. Ogni domenica egli, vestitosi in fretta, correva alla chiesa, ove rimaneva inginocchiato il più a lungo possibile, con gli occhi fissi al tabernacolo come un angelo adoratore, con edificazione di tutti. Essere prete. Desiderava istruirsi sempre meglio nella religione, ma tolta la domenica non gli restavano per questo che pochi momenti la sera. Sopra il suo letto, nella stalla ove dormiva, vi era un piccolo scaffale che si può vedere ancora attualmente e su quello deponeva i suoi libri di pietà. Ne prendeva uno, il Vangelo o l'Imitazione, e alla debole luce di una candela di resina cominciava la sua lettura. Francesco, che stava con lui e preferiva invece dormire, usò pazienza per un po' di tempo ed infine informò la madre, che saggiamente proibì a Giovanni Maria di vegliare troppo a lungo e gli comandò di prendere il necessario riposo. Giovanni Maria obbedì, ma nell'oscurità della notte, mentre Francesco dormiva, vegliava, pensando al suo Dio e all'avvenire. Quali potevano essere i suoi pensieri? Ascoltava levarsi dal profondo dell'anima quel «seguimi» che un giorno sulle rive del lago di Galilea decise Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni a seguire il Maestro. Giovanni Maria desiderava il sacerdozio e questo solo pensiero lo rendeva così buono. Ma come arrivare al sacerdozio? Aveva 17 anni, aveva ricevuto in qualche modo un po' di istruzione elementare e c'era da affrontare il latino. Poi, in famiglia, che cosa si sarebbe pensato del suo desiderio intimo? Quanto a sua madre, ne era certo, si sarebbe sentita fortunata di dare al Signore il figlio prediletto. Ma suo padre, benché molto caritatevole, non era ugualmente pio, forse perché i lavori di campagna lo assorbivano completamente. E Francesco, che aspettava la coscrizione che sarebbe stato necessario riscattare? E Caterina, che era fidanzata e che tendeva un po' di dote per il prossimo matrimonio? Ah, di quanta angoscia era circondata quella soave speranza. Ma e le anime da salvare? Tutte quelle parrocchie senza prete, quei fanciulli abbandonati senza istruzione religiosa, senza sacramenti, senza eucaristia. Quanta messa in pericolo per mancanza di mietitori. Non valeva perciò la pena superare tutte le difficoltà e di vincere tutti gli ostacoli. Prime confidenze e primi ostacoli. Le prime confidenze le raccolsero sua madre e la zia Humbert, alla quale espose anche il vero motivo della sua vocazione. «Se fossi prete, vorrei conquistare molte anime». Con quelle due anime pie non fu necessario discutere per ottenere il consenso desiderato. Gli bastò gettarsi fra le braccia di sua madre, che piangeva di consolazione. Ma come convincere suo padre? Giovanni Maria esitò alquanto prima di esporgli il proprio desiderio. Infine, incoraggiato dalla madre, gliene parlò durante l'ora di riposo che seguiva il lavoro, ma vide avverarsi tosto le cattive previsioni. Il padre fu inflessibile. Aveva dovuto preparare la dote di Caterina, maritata da poco al signor Melin di Cugli, e aveva dovuto provvedere al riscatto di Francesco, che aveva avuto un numero sfavorevole e per il quale si era dovuto pescare un sostituto. No, no, non si poteva mantenere agli studi un giovane. Sarebbe stata la rovina. non c'era nemmeno da pensarci. D'altronde, in un tempo in cui la sorte del prete era ancora precaria, chi si sarebbe assunto l'impegno di istruire un giovanotto di 18 anni? E con quale probabilità di riuscita? Giovanni Maria, addolorato, taceva. Matteo Vianney narrò a sua moglie le confidenze avute dal figlio e come erano state da lui accolte. La sposa cristiana si sforzò invano di perorare la causa di Giovanni Maria, dicendo al marito che si trattava del loro figlio più virtuoso, più laborioso e più buono. Questi stessi argomenti venivano ritorti contro la causa che la difendeva con tanto calore. Giovanni Maria era un lavoratore robusto e ormai pratico, ragione di più perché rimanesse in famiglia. Inoltre, il capofamiglia invecchiava, e come pagare un nuovo lavoratore? Insomma, il contadino di Dardigli non accettava di cedere a Dio quel tesoro. La lotta continuò lunga e tenace per circa 2 anni. Giovanni Maria non ne parlava più, ma gli si leggeva nello sguardo il suo desiderio. La sua condotta esemplare indicava continuamente al padre, ostinato nel suo rifiuto, la realtà di una vocazione sicura, tantomeno disposta a svanire in quanto su di essa era stata esplicita l'approvazione del confessore. È molto probabile che Giovanni Maria confidasse anche al parroco Don Rei il suo desiderio e le sue contrarietà. Disgraziatamente il venerando sacerdote aveva contratto in esilio infermità dolorose, che lo obbligarono presto a ritirarsi a Lione ed a rassegnare le sue dimissioni dalla cura di Dardigli, parrocchia alla quale era stato chiamato dall'autorità diocesana sul principio dell'anno 1803. Il suo successore, Don Giacomo Tournier, che venne a Dardigli il 7 luglio, non conobbe la famiglia Vierny se non più tardi. Ma anche allora Dio non abbandonò, se non apparentemente, il suo servo umile e coraggioso e gli preparò invece la via per raggiungere la vetta del sacerdozio e della santità. Nello stesso tempo in cui Don Rei veniva mandato a Dardigli, Monsignor di Merinville, incaricato di riorganizzare la diocesi di Lione in nome del cardinal Fesch, nominò curato di Écully un altro confessore della fede, il reverendo Don Carlo Balli. Don Balli, il beniamino di una famiglia di 16 figli, era nato a Lione il 30 settembre 1751. Fratello di un certosino, Don Stefano, egli era entrato ancor giovane col fratello Giovanni Alessandro nell'ordine di Santa Genoveffa. Quando scoppiò la rivoluzione era parroco a Saint-Clément-des-Chaux, nelle diocesi di Blois. Cacciato di là, si rifugiò a Lione, dove visse, ora in un piccolo appartamento ereditato dalla sua famiglia, ora nelle case più sicure e sovente presso il signor Lorà. Quivi purtroppo fu testimone accorato dell'apostasia di Giovanni Alessandro. Il 14 gennaio 1794 Don Stefano veniva ghigliottinato nella Place de Terre. Egli subì il glorioso martirio col sorriso sulle labbra. Appena 3 mesi più tardi pensò di unirsi a quei missionari che lavoravano a conservare la fede ad Écully e nei dintorni, col pericolo della propria vita. E quando nel 1803 gli fu affidata una parrocchia, volle con sé la sorella Margherita, già religiosa dell'Annonciade Céleste, di 18 anni più vecchia di lui. L'accettazione di Don Balli. Uno dei primi pensieri di Don Balli, dopo di essersi stabilito ad Écully, fu di trovare vocazioni sacerdotali e, per meglio coltivarle, fondò una scuola nella sua canonica. Il marito di Caterina Vianney, che era un buon cristiano, ne informò il giovane cognato, che del resto aveva già fatto conoscenza con Don Balli avendo assistito alla sua messa durante l'epoca del terrore. Il compito del nuovo pastore di Écully era immenso ed opprimente. Doveva provvedere ai bisogni religiosi di una parrocchia importante vicino a Lione, che era stata teatro di stragi durante la rivoluzione. Aveva 52 anni e si sentiva indebolito dalle miserie di una vita errante e sempre in pericolo. Ma per dare degli eredi alle sue fatiche apostoliche, si recava alla dimora del povero come a quella del ricco, in cerca di occasioni sacerdotali. Con questo apostolato raccolse ed ospitò nella sua casa un futuro gesuita, il giovane Deschamps, Mattia e Giacomo Lorà, figli di quel pio uomo morto sul patibolo, dal quale aveva ricevuto ospitalità nei giorni più tristi. Appena Giovanni Maria seppe che esisteva questa scuola presbiteriale, si sentì aprire il cuore alla speranza. Non sarebbe questa un'occasione favorevole per tentare un assalto definitivo presso suo padre? La madre, che non aveva cessato di incoraggiare il figlio nella sua vocazione, volle essere la sua avvocata anche in questa occasione. Spiegò a Matteo Vianney che non si trattava di mandare Giovanni Maria in un seminario, ma che sarebbe rimasto a Ricugli dove aveva fatto la prima comunione, nella casa degli Umbert, senza causare spese gravose. Giovanni Maria si sarebbe recato da Don Ballei solo per le lezioni e avrebbe preso i pasti presso la zia Margherita. Infine, il loro figlio voleva forse qualche cosa d'altro che la volontà di Dio? Matteo Vianney dovette acconsentire e conchiuse: poiché Giovanni Maria è assolutamente deciso, non le si può trattenere più a lungo. A questa felice notizia, il nostro giovane aspirante insistette presso sua madre perché si affrettasse ad avvisare Don Ballei. Maria Vianney, accompagnata da sua sorella Margherita Humbert, si presentò alla canonica di Ecugli. Don Ballei, di statura alta, magro, di profilo romano, era maestoso ed imponente. Le due donne, facendosi coraggio, dichiararono al ministro di Dio il perché della loro visita. La vocazione che si era fatta sentire nel giovane, la sua età, gli studi primari incompleti e interrotti da molto tempo, ma anche la sua crescente pietà e la condotta esemplare. Don Ballei ascoltava indeciso. «Sono così occupato che non posso ricevere un allievo di più», rispose. Ma poiché le due donne insistevano, egli tagliò corto. «No, non posso, non posso». Questa la scoraggiante conclusione di questo primo incontro. Desolate, le due donne tornarono a casa per raccontare il fatto al marito di Caterina, che alle loro istanze acconsentì a perorare di nuovo una causa già troppo compromessa. Ma Don Ballei insisteva ancora nella negativa. Finalmente il signor Melen tentò un'altra via. «Acconsentite almeno di vedere mio cognato. Quando lo avrete visto lo accetterete, ne sono sicuro». «Ebbene, venga pure». Così l'umile lavoratore dei campi e della vigna, accompagnato da sua madre, si presentò da colui che lo avrebbe introdotto nel campo del padre di famiglia. L'austero Don Ballei fissò i suoi occhi scrutatori su quel giovane diciannovenne, magro e pallido, raccolto e timido, gli rivolse delle domande e lo trovò istruito nella religione. Gli piacque soprattutto il suo sorriso espressivo e confidente. Seguì con uno sguardo di affettuosa bontà questo candidato al sacerdozio e disse: «Oh, questo sì, l'accetto». Indi, rivolgendosi a Giovanni Maria, aggiunse: «Stai tranquillo, amico mio, se sarà necessario, mi saprò anche sacrificare per te».